Radio 24 e Sergio Bonelli Editore presentano Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Finché morte non vi separi. Da una storia di Tiziano Sclavi. Regia di Gaetano Cappa. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, io e Lily eravamo rinchiusi in una stanza spoglia durante quella lunga, interminabile, straziante notte. Cercavo a fatica di riportare alla memoria ciò che era successo. Che cosa c'è, Dylan? Tentavo di ricordarmi qualcosa del mio passato, qualunque cosa. Non so, un libro che ho letto, un posto dove sono stato quando avevo, metti, 12 anni. A volte ricordo tutto benissimo. Altre volte, niente, il vuoto. Come se nemmeno fosse vissuto. E questa che volta è? La volta del niente. Nel cielo, fuori dalla finestra, sospeso nel vuoto della notte, c'era lo scheletro di un galeone in costruzione. A parte questo anello, naturalmente. Questo me lo ricordo bene. Ho sempre desiderato di avere l'anello teschio di Phantom, l'uomo mascherato. Ho risparmiato 6 mesi per poterlo comprare, per corrispondenza, in America. Tu non li leggevi i fumetti? No, ma per fortuna mi sono sempre piaciute le patatine. Già. Le accarezzai la mano. Portava quel meraviglioso anellino di plastica da 4 soldi sull'anulare. Ci abbracciammo e dopo aver fatto l'amore, restammo a letto. Che ore sono? È inutile che mi chiedi sempre l'ora. Hai l'ergastolo. Come? No, niente. Una vecchia barzelletta. Sono 2:00. Ah, bisogna festeggiare. È l'ora in cui ci siamo conosciuti. Beh, d'accordo che tutte le donne vanno matte per gli anniversari. Molte ragazze celebrano il complemese. Ma tu sei la prima che festeggia la compleora o anniversora? E non sarebbe bello? Tutti i giorni una festa. Tutte le notti, vuoi dire? 2:00. Ripensai alla notte in cui l'avevo incontrata. Mi rividi in divisa, un giovane poliziotto di pattuglia per le strade di Londra, a fianco dell'amico Bobby Conlon. Erano proprio 2:00. Sai, io c'ero a Londonderry quel giorno. Bloody Sunday, la domenica di sangue. Quanti anni avevi? Ero poco più di un bambino. Mio padre mi aveva portato alla manifestazione di protesta contro la carcerazione senza processo dei sospetti terroristi dell'IRA. Allora non ci capivo quasi niente. E a dire la verità, non ci capisco niente neanche adesso. Caro collega, credevo di essere solo io l'ignorante. Bah, se vuoi saperla tutta, credo che nessuno ci capisca niente. Come si fa a capire un massacro come quello della Domenica di Sangue? I paracadutisti inglesi hanno sparato ad altezza d'uomo, perfino contro la Croce Rossa. Quattordici ragazzi, tutti sui 20 anni, sono rimasti uccisi. E d'altra parte, le bombe dei terroristi irlandesi hanno fatto a pezzi un sacco di gente, tanti bambini. Già, ormai è difficile dire chi ha ragione. All'inizio credo che fosse chiaro. L'Inghilterra occupa l'Irlanda, dico 1 milione di anni fa, e gli irlandesi giustamente vogliono la libertà e l'indipendenza. Hanno ragione, non si discute. Ma vale la pena di uccidere? È peggio ancora di morire per una causa. Le cause costano. Meglio lasciarli perdere, gli avvocati. Ecco, sì. Anch'io cercavo di scherzarci un po' sopra. E per questo hanno cominciato a darmi del traditore. Non parliamo poi di quando sono venuto a Londra. E addirittura sono entrato nella polizia. Non so se mio padre odia più me o la regina Elisabetta. Ma che potevo fare? Altro lavoro non ce n'era, per nessuno. Figuriamoci per un irlandese cattolico. Roba da matti. Siamo arrivati sulla Luna e facciamo ancora le guerre di religione. Sarà che io non sono religioso, ma mi sembra una totale idiozia. Anzi, guarda, io quelli che uccidono per la religione li ammazzerei tutti. Vedi? Non c'è via di uscita. Beh, forse una lotta pacifica, tipo Gandhi. Incrociammo Lily, con i suoi lunghi capelli rossi e quel suo basco irlandese ficcato in testa. Quasi non la notammo. Camminava nella direzione opposta a passo spedito. Poi... mi allontanai da Bobby per correre a vedere cosa stava succedendo. La trovai accasciata a terra, terrorizzata. Sosteneva di essere incappata nell'apparizione di un sulfureo sacerdote che, brandendo una croce, le aveva sussurrato: «Pentiti! Pentiti dei tuoi peccati!» È apparso dal nulla all'improvviso e poi è sparito come un fantasma. Ma di chi parla? Una specie di prete, gliel'ho detto. Si è come materializzato davanti a me. Ma Lily non riuscì a finire il racconto. No! Bobby! Bobby! Bobby era stato ucciso da una bomba irlandese nascosta in una carrozzina per bambini abbandonata. L'attentato sarebbe stato poi rivendicato da un gruppuscolo terroristico di nuova formazione, il Fury, probabilmente affiliato all'IRA. Era il settimo dall'inizio dell'anno. La Camera si è riunita in seduta straordinaria. La regina Elisabetta parteciperà ai funerali di Stato di Bobby Conlon, il quale, per una tragica ironia del destino, era egli stesso irlandese. Incontrai Lily di nuovo qualche giorno dopo, nel pub in cui lavorava. Che combinazione! Quando staccò, andammo a fare quattro passi insieme al parco. Un tizio seduto per terra suonava una vecchia canzone irlandese. Avevo quattro verdi campi, quattro gioielli la vita mia. Ma son venuti gli stranieri e me li ha portati via. Avevo figli belli e forti, han combattuto per la terra, han combattuto e sono morti e son rimasti dolore e guerra. Oh, guarda, un chiosco! Patatine! Adoro le patatine, compramele! Perché porti sempre quel berretto? Sono irlandese, come quel povero ragazzo. Da noi è una specie di marchio di fabbrica, come la pizza per gli italiani. Se è per quello, anch'io vado matto per la pizza, come te per le patatine. E d'ora in poi andrò matto anche per i berretti irlandesi. Posso mangiare un pezzo del tuo? Era tuo amico? Bobby Conlon? Sì, uno dei pochi. Bobby? Come Bobby Sands? Morto anche lui dopo oltre due mesi di sciopero della fame nel carcere di Long Cash. Martire dell'Irlanda libera. Ma una volta ci mettevano un regalo a sorpresa nelle patatine. Ma poco prima che Bobby, il mio Bobby, morisse, parlavamo proprio di come sia stupido morire per una causa. Qualunque causa. Sta insultando Bobby Sands. Non volevo insultare nessuno, che c'entra? Escremento insetticida, mummia inesistente, trifolo parlante. Trifolo parlante? Fu in quei giorni, durante una manifestazione pacifista in cui ero di pattuglia, che incontrai per la prima volta Grucio. Si scatenò immediatamente. Devo portare il mio pesce dallo psicanalista. È depresso perché è nato il 1 aprile, ma non ci crede nessuno. Ma che cavolo? Ah, via! Togliamoci di qui, alza i tacchi. Che sciocchezza, non voglio sembrare più alto. Com'è che ti travesti da Groucho Marx? Per unire il piacere al dilettevole. Sono un attore e sto girando un film sulla nascita del comunismo. Non sapevo che anche tu fossi nel cast. Ma ti vedo perplesso. Ti faccio un esempio stupido che quindi tu capirai al volo. Vedi questi baffi finti? Sono veri! Mi viene in mente una battuta proprio di Groucho Marx. Guardate quest'uomo, sembra un deficiente e parla come un deficiente. Ma non lasciatevi ingannare, è davvero un deficiente. Grazie, amico. Ho trascorso dei momenti veramente meravigliosi, ma non erano questi. Sì, vattene, va. Sei fuori in tutti i sensi. Non dimentico mai una faccia, ma nel tuo caso farò un'eccezione. ci lasciammo nel bel mezzo della strada, senza sapere che un giorno saremmo diventati inseparabili. Agente Dog a rapporto, sir. E dai con il sir. E non dire agente Dog, sembri un cane poliziotto. Abbiamo fatto una lista degli irlandesi da controllare. Questo è il tuo, il numero 666. 666? Ah, un'altra cosa. Puoi toglierti la divisa. Ti ho promosso detective. Ah, grazie, vecchio. Vecchio. Mi contraddico. Chiamami pure sir. Il numero 666 era padre Lonergan, della chiesa dove Lily ogni tanto andava a pregare. Ma in realtà era un terrorista che usava l'altare come copertura. Portai con me una squadra speciale che si appostò dall'altra parte della strada. Salve, padre Lonergan. Non sono tuo padre. Lo so, non ha figli e non è neanche prete. Ho controllato. E tu non sei in divisa, e quella non è una pistola d'ordinanza. Già, e non fa neanche buchi d'ordinanza, molto più grossi. Ora stammi a sentire, non me ne importa niente della vostra stupida guerra. Voglio solo sapere che cosa c'entra Lily. Lily? È una fedele devota della Chiesa. Di quale Chiesa? Quella dell'amore o quella delle bombe? Quella di Cristo. Ah, no! Fermo! Non uscire! Alza le mani e vieni avanti adagio! Maledetti porci! Morirete tutti! Ma che fa, impazzito? Corre verso di noi! Maledizione! Fuoco! No! Gli spari fecero esplodere la bomba che padre Lonergan portava sotto la giacca. L'onda d'urto colpì anche me. Svenni. Furono gli schiaffi di Lily a risvegliarmi. Sveglia, Dylan! Svegliati! Sveglia! Aia, giù da ballerino, Lily, ma che diavolo... Niente imprecazioni in chiesa, forza, scappiamo! Scappare? Io non devo scappare! Ma io sì! Salta! Ci infilammo in un pozzo che partiva dai sotterranei della chiesa e da lì mi guidò nel labirinto delle fogne fino al suo rifugio segreto. Un buco puzzolente perso da qualche parte sotto la città. Non proprio il posto più romantico per un primo bacio. Lily, vieni qui. Ai! Io sono cattolica. Vabbè, io non ho pregiudizi religiosi. Paramecio retroverso. Io non faccio l'amore prima del matrimonio. Del che? Addio. Lily, non puoi lasciarmi qui così. Non so come si esce. Lily! Lily! In qualche modo, per non dire a naso, uscii da quel labirinto mefitico e andai al rapporto da Block. Guarda che un buon investigatore deve avere fiuto, non farsi fiutare. E risparmiati le bugie. La tua Lily mi ha telefonato per dirmi dove stavi. Che cosa? Lily ha telefonato? Già, mi ha chiesto di licenziarti. Dice che vi dovete sposare. Ma lei non può unirsi in matrimonio con un poliziotto. Sposare? Matrimonio? Ho controllato la sua scheda. Lily Connolly è una fanatica irlandese cattolica, anche se un po' svitata. O forse proprio perché è svitata. Suo fratello è morto 2 anni fa, in una manifestazione a Belfast, e per questo lei è entrata nell'ira. Ora però è disposta a consegnarmi documenti in suo possesso, compresi una lista di tutti i membri del Fury e soprattutto i piani del prossimo attentato. Questo in cambio dell'immunità e di te. Tornai da lei, nel suo rifugio puzzolente. Lily! Lily! Lily, sono io. Mi sei apparso come il fantasma di quella notte. Io credo che tu non stia bene, Lily. E che dovresti farti vedere da un dottore. Uno psichiatra, vuoi dire? Eh già, per voi gli irlandesi sono tutti matti. No, senti, non ricominciare con la solita solfa. Dimmi piuttosto che cos'è questa commedia. Nessuna commedia. Adesso tu porti questa borsa di documenti all'ispettore Block. Poi dai le dimissioni, ti converti al cattolicesimo e ci sposiamo. Tutto qui. Già, solo che io non ti credo, Lily. Credo invece che quelli del Fury si stiano servendo di te. E tu di me. Ma che stai dicendo? Io sto per tradirli e voglio scappare insieme a te. Manca qualcosa qui. Block mi ha parlato di un attentato. Dove sono i piani? Qual è l'obiettivo? Non cambiare discorso, cucumero al gelo. Non permetto a un inglese di dubitare di me. Questa borsa... Lasciala e vattene. Non ti sposo più. È pesante. È troppo grande per quei pochi fogli. È la prima che ho trovato. Vattene, Dylan. Vai via. Dio mio. Dio mio, semmai miscredente. Tu volevi servirti di me. C'è una bomba nella borsa. E l'obiettivo è Scotland Yard. Mi dispiace. Quando ho capito di essermi davvero innamorata di te, era troppo tardi. Già. E poi, dove l'avreste trovato un altro poliziotto per portarvi comodamente la bomba a destinazione? Intendo un novellino ingenuo, romantico e idiota come me. Mi dispiace, amore mio, ma devo farlo. Per mio fratello, per l'Irlanda. Un ideale vale più di un amore. È qui che ti sbagli, Lily. Comunque dovrai spararmi. Lo capisci, vero? A questo punto non hai altra scelta. Io ora prenderò quella borsa. Poi uscirò di qui e ti chiuderò dentro. No, Lily. Sì, invece. Non muoverti. Non costringermi a spararti. Lily, non... Mi sparò davvero. Mi salvai grazie a un giubbotto antiproiettile. Ma lei mi abbandonò lì, a terra, come morto. E si scaraventò con una bomba nella borsa a Scotland Yard. Scotland Yard è quasi completamente evacuata. Stiamo sgombrando la zona circostante. Pronti a far fuoco? Ehi, ma... anche lei è pronta a far fuoco? Lily! Ispettore, ma che fa? Lily, dov'è Dylan? Perché non mi dai quella borsa? Dylan! Io l'ho ucciso! Lily! Lily! Dylan! L'esplosione investì anche lei, ma senza ucciderla. La arrestarono e io, disperato e smarrito, me ne tornai nel suo rifugio, giù nelle fogne. Lo sapevo che ti avrei trovato qui. Block, hai saputo qualcosa? Non molto. Lily è stata esaminata da uno psichiatra e da un neurologo. Sembra che abbia una lieve lesione alle cellule visive cerebrali che rispondono al movimento. Non ho capito bene, ha delle crisi in cui non vede più il movimento di oggetti e persone, per cui si trova davanti all'improvviso qualcuno che prima, mentre si muoveva, le era del tutto invisibile. Comunque, non è bastato a invocare l'infermità mentale. L'hanno trasferita nel carcere di Dartmoor. Nel blocco H? Sì. La svegliavano più volte ogni notte, innaffiandola con spruzzi d'acqua ad alta pressione. La sua cella veniva sterilizzata di continuo con un disinfettante molto forte. I fumi la lasciavano cieca e senza respiro e la facevano vomitare. Dopodiché i secondini rovesciavano a calci il secchio sul giaciglio già lurido. Una volta al mese c'era la visita medica e le cure servivano a tenerla in vita. Ma prima veniva sottoposta a degradanti perquisizioni corporali. Al processo mi chiamarono a testimoniare. Pensavano che non avrei preso le difese di Lily, ma si sbagliavano di grosso. Dunque, si rifiuta di collaborare con la giustizia. Tutt'altro. Mi rifiuto di collaborare con l'ingiustizia. Lily Connolly è colpevole, certo. O meglio, era colpevole. Colpevole di un'azione dimostrativa che si sarebbe conclusa con il suo suicidio. La bomba era a basso potenziale. Ma non voglio giustificarla. Era colpevole, ho detto. Ma ormai i colpevoli, insieme a lei, sono le più alte istituzioni inglesi. Dal sistema di polizia a quello carcerario. È il governo che dovrebbe essere sotto processo. Silenzio, silenzio! Milord, chiedo che il test venga allontanato e denunciato per reticenza, oltraggio alla corte e alto tradimento. La richiesta è accolta. Venni sospeso per 6 mesi. Alla Camera qualcuno propose di ripristinare la pena di morte. Lilly cominciò uno sciopero della fame a oltranza. Io andai ad abitare in un trilocale a Craven Road. Mi ubriacai. Fu la mia prima sbronza. Da quel momento mi sembra tutto il sogno di un ubriaco disperato. O forse è stato il mio primo viaggio in un universo parallelo. Dylan, ho bisogno di un permesso, Block. Uno solo. Devo vederla. Ragazzo, Lilly non è più a Londra. L'hanno trasferita in un carcere di massima sicurezza sull'isola di Birdie ed è stata condannata a morte. Possibile. La pena di morte in Inghilterra era stata abolita nei primi anni 60. Probabilmente morì di fame nel carcere di Dartmoor e io mi inventai quello che successe o non successe dopo. La raggiunsi sull'isola che era stata trasformata nel suo carcere, verde come la sua Irlanda. La ricordo seduta su una scogliera a sussurrare: finalmente ho capito cos'erano i miei fantasmi. Ero io. Povera Lilly, perduta come il cosmo tra le stelle. Lilly, incapace di dare un senso a tutto quel vuoto. Lilly, una presenza sempre più immateriale. In una cattedrale fantasma celebrammo le nostre nozze. Lilly sta molto male. Sì, ho ottenuto una dispensa per poter fare a meno dei testimoni. La curia invece non mi ha dato il permesso perché tu non sei cattolico e dovresti prima convertirti. Ma non importa, Dio non chiede certificati. Intendo celebrare ugualmente e sopporterò le conseguenze della mia decisione. L'odio religioso è una delle tante assurdità del mondo. Vieni, lei ci aspetta. Vuoi tu, Lilly Connolly, prendere in sposo Dylan Dog? Sì. Vuoi tu, Dylan Dog, prendere in sposa Lilly Connolly? Sì. Gli anelli. Ma veramente... Io ce l'ho. Lilly estrasse un anellino di plastica trovato in un sacchetto di patatine. Io le porsi l'anello del teschio di Phantom, l'uomo mascherato, che avevo ritrovato frugandomi in tasca. Finalmente potemmo amarci nella nostra stanza spoglia e fredda per tutta una lunga dolcissima notte. Fu la sua ultima notte. All'alba, guardando fuori dalla finestra, vidi il fasciame del galeone che fluttuava nell'aria e si ricomponeva. È ora. No. L'avvocato di Lilly ha presentato domanda di grazia. Bisogna aspettare la risposta. Non ci sarà nessuna risposta, Dylan. La grazia l'ho già rifiutata. Io non voglio niente dagli inglesi. La mia morte servirà almeno a far conoscere un po' di più al mondo la tragedia irlandese. No, servirà solo a scatenare nuovi attentati e poi nuove rappresaglie e ancora bombe. Via così, senza fine. È il sistema che è violento. E ogni violenza fa solo il suo gioco. Andiamo. E voi la accompagnate. I preti hanno sempre benedetto i condannati, invece di ribellarsi alla pena di morte. Dylan. Mi baciò dolcemente e se ne andò incontro al suo destino. La guardai dalla finestra. La vidi che mi salutava e si allontanava nel cielo, sorridendo, a bordo del galeone che aveva tutte le vele spiegate, fino a sparire per sempre in un'alba color pastello. Sentii la ragione vacillare e fu così che cominciai a bere. Ma questa è un'altra storia. Adesso 4 verdi campi, 3 hanno avuto la libertà e col coraggio dei miei figli anche il 4° rifiorirà. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Finché morte non vi separi. Adattamento radiofonico di Franco Busatta e Gaetano Cappa. Con Davide Capostagno, Alberto Fasoli, Jacopo Fracasso, Alberto Onofrietti, Gualtiero Scola, Massimiliano Speziani, Irene Timpanaro e Margherita Varricchio. La canzone è cantata da Luca Gemma. Tecnico del suono Paolo Corleoni. Coordinamento di produzione Guido Scotti. Suono, musica e regia Gaetano Cappa.